credo, a destra, sulla destra c'era un viottolo che ti portava a una zona in cui, se non ricordo male, quando ero molto giovane, c'erano anche cani, e sotto c'erano degli enormi motori che muovevano queste antenne, e c'erano tutte sul traliccio, ed erano tutte direttive, ma direttive proprio di quelle belle sostanziose, non so se c'erano 4 o 5, non le ho neanche calcolate. Adesso non ho idea, perché non si vede più niente, sono tutte, hanno dismesso credo tutta la stazione, perché era un centro d'ascolto del FIOD, no? All'epoca si chiamava così, servizio, informazioni, operazioni speciali, se non ricordo male, dell'aeronautica, ma anche della, insomma ci siamo capiti, no? Della NATO. E di lì facevano ora di ascolto, ed erano comunque tutte stazioni collegate, c'erano anche la Cagliaristano, dico le stazioni, poi hanno smesso perché ovviamente la tecnologia è andata avanti, e per fare quel lavoro probabilmente utilizzano anche aerei che vanno in quota, quindi o droni, e per viene meglio spiare, capito? Non hanno bisogno di infrastrutture così massicce, così vivibili. Sì, io ho visto un paio di anni fa, 2 o 3 anni fa le avevo viste, infatti erano su rotaie motorizzate in Asia, molto eccetera eccetera, forse anche nelle versioni regolate, no? Erano delle bestie enormi, infatti ho detto cacchio, è queste cose, sono militare. Cioè, no, ah, la faccia, ma sono d'accordo. Rieccomi. Una cosa un po' mi stavo facendo avanti qui, diciamo che il Google Earth. Così c'era, non so se tu l'hai mai vista, perché era talmente nascosta, non ci sono più andato da almeno 4 o 5 anni. David, lo sai dove è il centro casa, i punti? Centro casa, ali punti, sì, più o meno. Allora, il pizzicotto, lo so, la pizzeria, il pizzicotto. Sì, sì, sì, il centro casa è quello che è sbloccato la 120. Se tu vai di lì più avanti, ci sono le case popolari, lì all'interno c'è un terreno tutto recintato, tutto chiuso, e c'era un'antenna, c'era stata una ventina di metri di diametro, una parabolica, con rotaie, una cosa mostruosa, non ne avevo mai visto così vicino, cioè da vicino, una cosa così grande, e poi c'era un'altra, è stata sui 5 metri, non ho mai capito per che cosa servisse, ma che non c'era qualche stazione di uplink, di per satellite, di qualche cosa, per trasmissione dati, o cosa del genere, una cosa spaventosa come dimensione, però non ci sono più andato, ho provato a cercarla con Google Maps, satellitare, ingrandire, non l'ho mai trovata con la parabola. Ma questo da molti anni. Guarda, stiamo parlando 6 anni fa, non di più, però ti sto dicendo, è una cosa enorme, con quelle, tipo le parabole dei radiotelescopi, però questa non era un radiotelescopio perché era troppo piccola, era una parabola di una ventina di metri, con un'altra vicina sui 5 metri, però quella era motorizzata solo elevazione, azimuth dell'elevazione, questa invece ruotava su 360 gradi, c'era le rotaie di treno e potevi spostarti totalmente, ruotare la parabola. No, onestamente non mi è capitato, non mi è capitato di vederlo, quindi adesso sono proprio lì dove c'è centro casa, quindi da centro casa devo andare verso Vicenti, giusto? No, verso Porto Torres, tu stai andando da Sassari verso Porto Torres, c'è centro casa da riferimento, supera centro casa, io di linea d'aria sarà 500 metri, non di più penso. Lato destra o sinistra? Lato destro, c'è un terreno almeno, era tutta nascosta, non si vedeva, l'avevo vista un giorno per sbaglio dalla 131 in mezzo a degli alberi, si riusciva a intravedere questa cosa enorme, ma cacchio, allora ho fatto tutto il giro e sono andato a cercarla, deve entrare in una servitù, almeno quando sono andato io, vedi tutto chiuso, tutto camuffato, tutto nascosto, non vedi niente, poi te la trovi di colpo davanti, almeno era così, se non l'hanno smontata. Qua vedo una grossa villa, ma non ho tanto di pannelli solari, piscina, non si vede più niente, poi vado ancora più, non era molto dentro come, cioè era sulla 131, affacciava, fa così. Allora era tra la 131 e quella strada che fiancheggia il centro casa, proprio di lì in mezzo, un po' verso la 131, che ci sono degli alberi, c'era una villa di lì, una casa, dai, non so c'era, di che cosa era, e c'era in mezzo a questo terreno questa bestia di cosa, che non ho mai capito, ho chiesto in giro, non so, uno mi ha detto sì, so cosa si tratta, però non ne posso parlare qua, un tipo abbastanza esperto di queste cose, perché lui ha piazzato delle cose particolari, mi ha detto che non si poteva parlare, l'unica informazione che ha avuto. Mi ha impressionato le dimensioni della parabola, io sono molto appassionato di satelliti, e non può essere radio telescopio perché non ha le dimensioni, e poi la zona è troppo disturbata, nel senso ci sono delle interferenze di lì per fare quel tipo di operazioni. Può essere una stazione di uplink, di cosa, di trasmissione dati, per dire quando devi, tipo come quelle del Fucci, no? Quelle che c'è giù a Cagliari, che c'è a Sky, interconnessione di satelliti, di terra satelliti, però ho detto, ma cacchio, la fai lì? No, mi sembra strano, guarda, perché sì, vado per lì, mi fa qualcosa, ma sto proseguendo, come ha detto tu, nella 131, però praticamente scendendo da Sassari verso Poco Torre, che è lato sinistro, non destro, perché il lato destro è quello oltre la strada, la allora tu l'hai vista come è fatta la strada, centro casa è fatta tipo un triangolo, sul lato destro c'è la 131, lato sinistro con la strada che porta a Virgilio, tu costeggia con la strada lì di centro casa, farai 200 metri, 300 metri e c'è una stradettina, una specie di servitù, un viottolino, ma almeno non era asfaltato, e di lì dentro e c'era questa parabola, io l'ho cercata con satellite, non sono riuscito a identificarla, per dire vedo le parabole mie, le antenne mie, tutto, ho ingrandito, l'hanno oscurata, non so cosa hanno fatto. Questo qua cosa è? Quindi c'è una serie di cose dove c'è una sigla CFR, non so cosa sia, però non è un sentiero, ma è sempre sulla strada che poi si porterebbe a centro casa, CRST, cosa sia su giù. Poi qua sono dei carreggiati non identificati, però io sono sempre nella zona di centro casa, perché tu mi hai detto che praticamente lì c'è anche hai visto quei caseggiati grandi, forse sono gialli, dove ci sono le case popolari degli punti, loro sicuramente la parte interna verso il centro casa, se c'è ancora la vedono perfettamente, perché risulta tra quei caseggiati lì e centro casa, questa parabola enorme. Sì, allora, guarda, io adesso sono a centro casa, dietro centro casa c'è praticamente una finestra, poi ci sono queste villette che sono villette a fiera, ma ti ho detto di proseguire verso la strada, quindi mi addentro verso i punti, ci sono altre case che sembrano popolari, infatti, se giri a destra poi vai verso la piazzetta che c'è una rotatoria, anzi parlo anche di questa, per essere sincero. Dopodiché di rilevante su questo lato non vedo niente, a parte questa sigla evidenziata CRST. Ah, tu stai andando forse troppo avanti, sei già alla rotatoria, prima della rotatoria, molto prima, ti ho detto quasi attaccato al centro casa, risulta, forse è confinante, o se non è confinante sarà 50 metri, dai, parliamo andando verso Porto Torres, da lì punti verso Porto Torres. Ah, ecco, quindi non devo entrare nella strada di centro casa. Tu entri nella strada parallela alla 131, fiancheggiando l'ingresso di centro casa, ci sono mai entrato, c'è un ingresso nel triangolo, perché fa triangolo il terreno suo, il lato destro c'è la 131 andando verso il portatore, l'altra a sinistra c'è un'altra strada, un rettilineo che porta a Virgilio, tutta quella zona lì, Valdinca, eccetera eccetera, tu superi il centro casa, farai 100 metri, giri a destra, c'era una stradina nascosta, perché quasi non la vedi, entri di dentro e c'era questa parabola, farai altri 200 metri dentro e c'è una parabola, questa cosa di trasmissione, non so cosa sia, assolutamente non, io penso sia qualcosa per trasmettere tipo Sky, qualcosa del genere, quando fanno i collegamenti tra satelliti, per dire, si collegano con un satellite remoto, lontano, e poi lo rimandano il segnale, qualche stazione di interfaccia, non lo so, l'unica cosa, perché non è roba militare, era tutto aperto. Ah, io andate a mangiare. Mi hai, dove? Rientrato solo da portare il camion, non sta piovendo, e vi ho sentito sul 23, e vi ho sentito. Siamo sul 10. E vabbè, ma io ero sul 23 però. E non ti vedi splatter? Splatter? Cosa sono gli splatter per me? Non ho splatter io, non sento nessuno. Manco Roberto sento io, Antonello, nessuno. Cosa? Allora, qua vedo che c'è anche un circolo bocciofilo, ma mi sa che sono andato troppo avanti. A parte una zona che c'è. Aspetta un attimino che sto fuori, che sono dei gatti che stanno parlando. Secondo me tu stai utilizzando Google Street, non la vedi con Google Street, devi vedere con Maps, con la satellite, mappa satellitare. E beh, Clark, cosa stai utilizzando tu? Sto utilizzando sempre il 950, però con il secondo attacco, non l'MC60, l'altro attacco, che è il Tarnet più 3. No, non è come microfono, Gandere Giambato 3. No, questo è sempre collegato, io posso usarlo con un microfono o con l'altro. C'ha due attacchi, ti ho detto, una 8 e una 4. E ieri ho trovato un giocattolino qua, ho visto quanto costa, infatti l'ho preso al volo, ero un po' indeciso, quel negozio vicino, come si chiama, di fronte alla piazzetta, l'hai mai visto che vende roba usata, vintage, cioè quasi nuovo? E quello è, Gianfranco di Viale Porto Torres. Che cos'è? Un strumento cos'è? È un modulometro della Racal, costa anche un po' di soldi, sto guardando su internet, 250-285 euro, è una cosa abbastanza, solo che volevo chiedere a qualcuno, infatti ho mandato una cosa a questo gruppo di radioamatori, il collegamento, perché io l'ho utilizzato in ricezione, lo volevo utilizzare in trasmissione per vedere come funziona, per vedere da dove lo devi collegare e come lo devi collegare. C'è un bello strumento della Racal, un po' pesante, è tutto a ferro, una bella bestia. Ma di là Gianfranco, non so se lo conosce lui. Tipo, sì, modulometro, analizzatore, dai, come c'ho io sul 756 della ICO, che c'è l'analizzatore di spettro. Va bene. No, questo è perfetto, Robè. È regolato perfettamente questa radio, nessuno mi ha mai detto niente. Certo, la modulazione con questo secondo ingresso è un po' diversa, ma è molto bella, molto chiara, pulita. Sì, già va bene. No, mi cerca se c'è il coso, il computer, il cellulare, cerca Racal 9009, modulazione meter. E dopo lo guardo, intanto devo entrare qua che c'è la partita alle 9:15. C'è Roma Juventus, un culo, l'Inter è 4-3, era Bildelli 3-2, boh. Vabbè, non sono anti-interista, comunque se perde mi fa piacere. Ma lo sai che ieri mi ho guardato tutta la partita, ho visto poi andata in vantaggio a Fiorentina, mi sono mezzo dormito 5 minuti, non lo so, proprio nel momento che hanno fatto il gol, poi vedo 3-3, ho detto, cazzo, perché riesci da pareggiare all'Inter, mica poi avevi 4-3, ho perso il quarto gol, cioè l'ho perso, l'ho visto però, ero convinto che fosse il pareggio dell'Inter, invece era 4-3, cazzo. Ah, va, che era fuori gioco il gol di D'Ambrosio, già... Era Rasiora, era su calcio d'angolo, ha segnato. Boh, vabbè, comunque. Ha vinto, pace all'anima sua. Pace all'anima sua. A me mi interessa Juventus, che vinca anche oggi contro la Roma, ha vinto fuori casa contro la Sampdoria, adesso vince contro la Roma e così inizia bene il campionato. Comunque il campionato è molto tosto, ho visto l'Atalanta, il gioco dell'anno scorso, la Lazio ha vinto a Cagliari 2-0. L'Inter vabbè era in casa quindi, però già va bene, sì. Ok dai Robè, io ti saluto, sono passato a salutarvi, che sono 23, abbiamo chiuso, niente, vado a iniziare a prendere qualcosa per cena e poi mi guardo la partita, ok? Che io ciao Claudio, ci sentirei anche io adesso. Saluto a Gianfranco, se rientra e vado anch'io a mangiarmi qualcosa e poi mi guardo un pezzo di partita, dai. Ciao Claudio, ci sentiamo quando vuoi, dai. Gianfranco, sì? Sì, ciao Claudio, buona serata. Sì, stavo guardando l'apparecchio, la Caldana 2009 in MSN, da 8 a 1,5 giga, e lui? Sì, sì, quello lì è, ma è anche abbastanza portato, lo sai. Sì, 240 euro. Io l'ho pagato 50 euro e funziona perché l'ho provato, non è nuovissimo perché infatti i coperchi, oh, tutto in alluminio massiccio, è costruito veramente bene, infatti in officina me lo prendo, li smonto e me li vernicio, devo capire un po' come si smonta perché c'è un maniglione grosso, ho visto c'è un accordo delle viti, dovrebbe essere a scorrimento tipo cassetto che rimane la parte centrale dove c'è il frontale, a scorre probabilmente tutto il blocco, così gli do una verniciatina, è color tipo il 440 il colore, una specie di grigio satinato dal fumo di Londra. Sì, sì, è un misuratore di modulazione praticamente, dove c'ha tre ingressi, un ingresso per, anzi due ingressi di input per il coso lì, per l'RMS, poi un ingresso per l'esterno, per l'oscillatore, poi c'è una levetta di quelle rustiche ancora per il range sia di misura sia per l'AM e l'FM, sì, è per controllare le varie modulazioni, un modulator meter a batteria tra l'altro. Poi c'ha le scale di coso, di riduzione, c'ha 4-5 scale a seconda, tipo il tetto, diciamo c'è la scala a parte da minima, poi ci sono gli ingressi, due ingressi, uno da fare sino a un millivolt o 200 mV, adesso non mi ricordo quanto siano, un volt forse arriva, l'altro un po' più basso, attenuato, per coso. Poi c'ha delle uscite particolari per attaccare e uscire lo scoop, eccetera, eccetera. Però volevo provare a interfacciarlo con uno di questi apparecchi che ho io, per vedere, non te ne vai nuda, ma così per il gusto di vedere la modulazione con uno strumento efficace, non con il solito giocattolino tipo MB più 5. Niente, sì, della Racca è una marca eccellente, su tabulati militari, sono quelle apparecchiature costruite proprio su misura con le specifiche militari, tipo quello che stava dicendo Claudio col Barrett, un bel apparecchio quello. Sì, sì, stavano sopra. Dunque, io volendo ne avrei tutti da fare tanti, il mio problema è sempre lo stesso, però nello spazio, troppo poco spazio, e poi a finire che si rimangono isolati, a me la roba isolata non piace, perché ormai gli apparati piacciono quando sono collegati alle antenne, e usarli un pochino, perché se no non lascio per il gusto da tutto. Vabbè, adesso però Gianfranco ti devo mollare, vado a mangiare qualcosa e poi mi guardo la partita anch'io. Dai, ti saluto, è stato un piacere fare una bella chiacchierata, dai, speriamo si possa ripetere altre volte, dai. Alle prossime, ciao ciao, cuore più da parte mia. Sì, ok, va bene, ci sentiamo alle prossime. ciao, buona partita, allora anch'io vado a mangiarmi qualche cosa. Ah,